Allora, intanto partiranno delle diffide contro diffamazioni, insulti, minacce, offese gravissime rivolte all'assessore Priolo e a parte dell'amministrazione. La diffida è una lettera con cui si dice alla parte che la riceve che il suo comportamento integra quindi una diffamazione e che chiede un risarcimento del danno. Ovviamente a questa diffida le parti possono rispondere facendo un'offerta economica o anche di scuse, perché l'assessore ci ha anche detto che è disposto ad accettare invece che una somma di denaro delle azioni concrete di volontariato, di messa in discussione, no, di quello che si è detto. Se non ci sarà invece un seguito, una risposta, andremo per una mediazione civile e se nemmeno in quella sede si dovessero presentare, si arriverà a un'eventuale causa civile dove appunto si agisce per il risarcimento del danno per le offese pronunciate nei confronti di sindaco e assessora. Ora, lo scopo, come abbiamo già detto, non è quella né di censurare né di andare a colpire la libertà di espressione, ma come avrete visto dal tenore delle cose che abbiamo riportato, di andare a colpire chi oggi non riesce più a esprimere un'opinione liberamente, ma soltanto a insultare le persone. E crediamo che odiare ti costa, cioè quindi distribuire il costo di quest'odio non solo sulle spalle delle vittime ma anche sulle spalle di chi lo agisce abbia un effetto deterrente, ci auspichiamo che abbia un effetto deterrente. Io personalmente sono vittima di odio in rete da qualche anno, ho già iniziato 75 cause di odio. Uno dei miei hater era un poliziotto che una sera liberamente così mi ha mandato un messaggio Facebook dicendomene di ogni, e devo dire che poi leoni da tastiera si presentano con grande coda fra le gambe, chiedono scuse, invocano le scuse perché nel loro budget familiare, nella loro vita, questo costo dell'odio non era previsto. Invece noi vogliamo che la gente sappia che se fuori insulti qualcuno, come minimo ti becchi, probabilmente ti becchi un ceffone, non lo so, a volte mi chiedo, ma se qualcuno fuori ci dicesse le cose che ci dice in rete, cosa accadrebbe? La gente deve capire che le parole dette in rete hanno un peso, hanno lo stesso peso che avrebbero fuori dalla rete. Si parte da qui, ma l'idea è un domani anche di riuscire a ottenere un fondo per le vittime dell'odio. Sì, questa è una delle idee di Odiare ti costa, non un domani molto vicino, perché in realtà Odiare ti costa è un progetto nato il 22 luglio, nel giro di 4 mesi abbiamo seguito più di 200.000 persone, tutte a titolo gratuito, non oneroso, con una rete di decine di avvocati in tutta Italia. Spieghiamo questo ai cittadini vittime di questo odio, questa diffamazione, questa invece libertà di espressione. Andiamo sempre molto cauti. È chiaro che se dovessi seguire la giurisprudenza vi direi che anche stupidino è una diffamazione, ma noi diciamo che cerchiamo di far capire alle persone che per agire in giudizio c'è bisogno di essere stati veramente insultati e di aver avuto anche un patimento, un danno concreto. Tra poco partiremo anche con decine di azioni che hanno come protagonista vittima Michela Murgia, che è una delle persone credo più bersagliate d'odio in questo momento. Vi dico che l'insulto più soft che ha ricevuto è stato perché delle tue gambe, perché ti vorremmo appendere a testa in giù, tagliarti le gambe e fare delle tue gambe salame per clandestini. Questo è stato l'insulto più soft che ha ricevuto, tra migliaia.